Letture di Radio 24. Da anni gli studenti finlandesi sono ai primi posti nei test che misurano le competenze dei ragazzi nei paesi dell'OCSE. Il successo della scuola finlandese sta soprattutto nella rigorosa selezione degli insegnanti, ma si tratta di un modello difficilmente esportabile, come commenta Claudio Giunta nell'inserto culturale del Sole 24 Ore. A un certo punto, tutti hanno cominciato a partire per la Finlandia. Task force di insegnanti, pedagogisti, delegazioni di partito. Perché in un mondo in cui le scuole vanno male e gli studenti arrancano nelle classifiche internazionali, dietro gli indiani, i cinesi, i singaporiani, in Finlandia le scuole vanno bene. La prova? Gli studenti finlandesi sono da anni ai primi posti nei test PISA che misurano le competenze dei quindicenni dei paesi OCSE nella lettura, nella matematica e nelle scienze. Il libro Finnish Lessons rende ora questi viaggi sulle tracce del modello virtuoso un po' meno necessari, se non proprio inutili, perché in 165 pagine dice tutto quello che serve sapere sul sistema scolastico finlandese. In realtà dice anche troppo. Cioè spalma su 165 pagine quello che si sarebbe potuto dire in 30. E lo dice spesso con un orgoglio e un pathos abbastanza urtanti. Un capitolo si intitola «Il futuro è finlandese?». La maestra elementare Veera Salonen dichiara «Voglio essere un insegnante perché voglio fare la differenza nella vita dei bambini e di questa nazione. È l'unico modo attraverso il quale penso di potermi realizzare». E l'intero libro è condito da citazioni New Age prese da Neil Young o dagli U2. Del resto l'autore, Pasi Sahlberg, non è uno spettatore imparziale, bensì il direttore generale del Ministero per l'Educazione e la Cultura. Parla delle virtù del sistema che amministra. Toni ispirati a parte, come funziona questa scuola modello? Dopo aver letto il libro ne ho parlato con Alberto Tomasi, preside del liceo scientifico Leonardo da Vinci di Trento, che è tra quelli che sono andati a verificare sul posto. I finlandesi vanno a scuola a 6-7 anni e stanno nella stessa scuola fino alla conclusione dell'obbligo, a 16 anni, il che vuol dire che non c'è cesura netta tra elementari, medie, l'anello più debole della scuola italiana, e i primi 2 anni delle superiori. Finito questo primo segmento, che si chiama Peruskoulu, si aprono 2 strade, quella del liceo, che dopo 3 anni porta in genere all'università, gratuita in Finlandia, e quella della scuola professionale, che dopo 3 anni porta al lavoro o a un ulteriore biennio di vocational college. E questa scelta è fortemente orientata dai consigli degli insegnanti. Il curriculum è meno rigido rispetto a quello italiano. Ci sono alcune materie obbligatorie, finlandese, svedese, matematica, poche altre, e altre materie opzionali, scelte a seconda degli interessi e delle inclinazioni dello studente. I corsi non durano per un intero anno scolastico, ma vengono spezzati in moduli di alcune settimane, al termine dei quali c'è un esame. La bocciatura non esiste. Chi è carente in una materia o chi ha accumulato troppe assenze segue un'altra volta il modulo, dopodiché prende il voto che si merita. Non esiste neppure il gruppo classe compatto e immutabile. Ogni studente cambia classe e compagni a seconda del modulo che deve seguire. La classe, intesa come muri e banchi, appartiene all'insegnante, che è libero di gestirla come meglio crede. Le scuole sono, in linea di massima, accoglienti, mense, spazi di studio, postazioni internet. I controlli minimi. I bidelli quasi non ci sono, le pulizie sono affidate a imprese esterne. Le ore di lezione frontale sono meno di quelle che si fanno in Italia. I compiti sono pochi. Invece di passare i pomeriggi a studiare, i giovani finlandesi si ritrovano in gruppi sportivi o associazioni extrascolastiche. Durante il periodo in cui fu ministro von Humboldt, emanò un solo editto per una seria selezione degli insegnanti. La Finlandia applica con rigore questo principio. La selezione degli insegnanti è estremamente severa, il che fa sì che la professione sia ambita e rispettata, anche se gli stipendi sono solo poco più alti rispetto a quelli medi europei. E, mi fa notare Tomasi, le modalità d'assunzione sono molto più flessibili di quelle italiane, perché a decidere non è il ministero, bensì una commissione formata dal preside, che ha molto più potere dei suoi omologhi italiani, da alcuni docenti e da un rappresentante del comune. Si decentra, si incoraggia l'autonomia. Quanto alla valutazione, è degno di nota il fatto che i finlandesi, trionfatori ai test PISA, rifiutino i test standardizzati, quelli che pretendono di misurare attraverso un unico protocollo le competenze di tutti gli studenti di un intero paese. La cosa commuove soprattutto i commentatori americani, perché negli Stati Uniti il programma No Child Left Behind ha trasformato le scuole in catene di montaggio, nelle quali si mortificano gli insegnamenti fondamentali e l'intera didattica si risolve nel teaching to the test, cioè nell'insegnare quel che serve a superare gli esami, e poco altro. La discussione su questo punto è infinita, ma come mi fa osservare Tomasi, la scelta finlandese sembra pagare anche a livello di sistema e non solo di exploit individuali. I test PISA mostrano che in Finlandia il livello degli studenti nelle varie scuole è omogeneo, mentre l'Italia è il paese OCSE in cui le differenze di qualità tra scuola e scuola sono più marcate, cioè tra Roma centro e Roma estrema periferia, salvo eccezioni, c'è un abisso. E sta qui la vera iniquità. E si intende che la commovente figurina dello studente dell'anno o simili non aiuterebbe a riequilibrare le cose. Al contrario, è tutto oro quello finlandese? Una volta finito Finnish Lessons, restano molti dubbi e vengono in mente molte obiezioni. Questione di numeri. Un conto è far funzionare il sistema scolastico in un paese di 5 milioni di abitanti, e un conto è far funzionare il sistema scolastico in un paese popoloso ed eterogeneo come l'Italia. Questione di soldi. Non è strano che la scuola funzioni in un paese scandinavo, con un forte stato sociale e con una multinazionale come Nokia in vertiginosa espansione a partire dai primi anni 90. Ovvero, non è tutto un po' più semplice? Non c'è soprattutto da dire che le scuole funzionano dove ci sono i soldi per farle funzionare? E per esempio che, con la Danimarca, la Finlandia è la nazione del mondo che conta il minor numero di bambini poveri. La Peruscolu in Uganda o nella periferia di Chicago o di Milano non avrebbe lo stesso successo. Questione di sostanza. Certe frasi di Salberg lasciano perplessi perché sono in contraddizione con il curriculum personalizzato che sarebbe il vanto della scuola finlandese e perché avallano orientamenti pedagogici deteriori. Meno tempo speso in argomenti convenzionali come la lingua materna, la matematica e le scienze, e più tempo per temi integrati, progetti e attività. Infine, un dubbio generale sulla valutazione. Se una delle chiavi del successo finlandese è il rifiuto di introdurre nelle scuole test standardizzati, allora perché dovremmo credere ai risultati dei test PISA? Siamo davvero certi che si misurino competenze che tra nazione e nazione possano essere paragonate? Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Claudio Giunta, Finlandia, scuola modello? Dal settimanale Domenica, allegato al Sole 24 Ore in edicola oggi. Mentre i costosi Frecciarossa permettono ai viaggiatori di arrivare a destinazione più o meno puntualmente, per i pendolari di Trenitalia continua il calvario fatto di ritardi e treni sovraffollati. E ora Mauro Moretti minaccia di abolire i treni regionali se non arriveranno altri soldi. Ma fare l'amministratore delegato di Trenitalia come lo fa lui sono capaci tutti, commenta Aldo Grasso sull'ultimo numero del Magazine 7. Premesso che amo i treni. Premesso che amo ancora di più il lavoro a chilometro zero. Premesso infine che bisognerebbe darsi da fare per limitare la piaga del pendolarismo, le cui prime vittime ovviamente sono i pendolari stessi. Premesso tutto questo, dico che fare l'amministratore delegato delle Ferrovie Italiane, come lo fa Mauro Moretti, sarei capace di farlo anch'io. L'ultima è questa. Nel corso di un convegno alla Bocconi, il numero uno delle ferrovie ha sostenuto che fra non molto i pendolari resteranno appiedati. Nel 2013, se non ci saranno soldi a bilancio, non faremo il servizio regionale. Non so che cosa farà l'Authority, l'unica cosa che potremo fare noi sarà interrompere il servizio. Magari verremo denunciati per interruzione di servizio, ma poi vedremo come andrà a finire. A sostegno della sua tesi, Moretti ha quindi elencato le solite cifre sul divario in fatto di ricavi tra l'Italia e il resto d'Europa, e tra ferrovie e trasporto su gomma. Per carità, tutte cifre giuste, ma guidare un'azienda tenendo solo la parte sana, il Frecciarossa, e tagliando i rami secchi, oppure mettendoli tutti a carico della comunità, è giochino fin troppo facile. E infatti, la secca replica del ministro dello sviluppo economico, Corrado Passera, non ha tardato. Ci stiamo occupando più che abbastanza del trasporto pubblico locale. Le ferrovie italiane hanno vissuto per troppi anni in regime di monopolio, scaricando sempre sui contribuenti politiche dissennate, investimenti sbagliati, scelte discutibili. Tanto pagava Pantalone. Per questo sono senza senso le recriminazioni del segretario di Rifondazione Comunista Paolo Ferrero, secondo cui le parole di Moretti sono scandalose. Il governo e le ferrovie dello Stato spendono e spandono per TAV, Frecce Rosse e così via, e non mettono i soldi per i pendolari. Così continua a pagare Pantalone. Se verranno soppressi i treni per i pendolari, la colpa non sarà certo dei Frecciarossa. Per la prima volta in Italia abbiamo treni degni del nome. Ma della mancata liberalizzazione. Questo è il vero problema. Ne sa qualcosa Arena Ways, la prima compagnia ferroviaria che ha cercato di rompere il monopolio dell'EFS con un servizio rivolto ai pendolari sulla tratta Torino-Milano, senza fermate intermedie. Ne sanno qualcosa i nuovi treni della NTV, la compagnia ferroviaria di Montezemolo e della Valle, che continua a trovare ostacoli al proprio insediamento. L'ultima è la cancellata della stazione Ostiense, che impedisce l'accesso diretto da Casa Italo al binario. A dirigere così, i guadagni a me, i debiti alla collettività, sono capaci tutti. Avete ascoltato la lettura dell'editoriale di Aldo Grasso, Il capo delle ferrovie? Può farlo chiunque, dal Magazine 7 del 22 giugno.